Milano 2010, c'è qualcuno? Buonasera. Attenzione 2010, buonasera, c'è qualcuno? Buonasera 27075, c'è qualcuno? Buonasera 27075, c'è qualcuno? Buonasera 27075, c'è qualcuno? Buonasera 27075, c'è qualcuno? Good evening. On 27075, go ahead and query that. Natalino, mi trovi? Yes, sir. Gavino al mic. Però sei tutto saturo, Gavino. Ora un po' a vedere, così sono ancora saturo, Natalino, sono in un controllo. Eia. Sono sempre saturo, vero? Abbassa ancora un po'. Guarda un pochino, Natalino. E adesso potrebbe andare bene, dai. Sì, ho messo questo MB4 al Kingwood, adesso l'ho abbassato un bel po', guarda a vedere, va bene adesso. Però te la manda in saturazione quel microfono, c'è qualcosa di strano. E adesso l'ho abbassato ancora un po', adesso l'ho abbassato ancora tanto, è a 1. E lascialo così. Se no ti va in saturazione. Capito, quell'MB più 4 non è che vada tanto bene per lì. A quanto ce l'hai il microfono? A 1, adesso è a 1 e abbasso ancora dalla radio. No, lascialo stare, adesso già è radio 5, non c'era la saturazione. Cosa, Natalì? Che adesso non c'era la saturazione, diciamo. E andava bene, capito? È positivo, guarda, adesso è a 1 e la radio è quasi a 3. E capa, lascialo così. È più forte però la radio di prima, o no? No, negativo, con l'altro microfono ci va più forte. Adesso sembra un microfono normale praticamente. Adesso di nuovo saturo, è Natalì. No, negativo. Ok, adesso c'è il microfono che è a metà, a metà potenza, e quello della radio l'ho lasciato fermo. Lascialo così, così va più che bene. Positivo, dai. Niente. Lo lasciamo così allora. No, le BB più 4, forse sono troppo vicino però, anche parlando. No, no, sta andando bene. Capito. Forse magari è normale, non gli hai fatto niente a quel microfono, così. È tutto modificato, Natalì, c'è anche il ponte, il ponticello fatto, sì, e devo trovare, dai, giusto compromesso con questo microfono, adesso è a 6, però della radio è basso, Lascialo così. È positivo, dai, positivo, grazie del controllo, Natalì. Ci deve essere qualcuno sotto che magari vuole entrare. Avanti, chi vuole entrare sul 10? Negativo, là. No, non c'è un bel QRM, c'è molto QRM. No, te la stanno mettendo, cosa? No. Cosa? La portante c'è. Perché ha subito la truffa? Quando parli ti annulla. Difficile da rimanere. Vuol dire che è qua a Sassari. Vabbè, pazienza. Non ci posso fare niente, pazienza. Adesso ti ho sentito. Pazienza, non ci possiamo fare niente, lasciamo di fare. E infatti, l'unica è quella, già si stancano. E Gianni, non si è sentito? La verità sto accendendo adesso e quindi non ho sentito nessuno, capito? sai, anche io, lui non ho acceso poco fa io per farmi questo microfono, Natali, perché ho letto che va bene per il Kenwood, ma vediamo un pochino. E io l'avevo abbinato al 440, andava bene, andava questo qui, e ho fatto la prolunga, perché siccome c'è il filo suo troppo corto, allora gli avevo fatto una prolunga per il 440, sul 440 andava bene. Anche io ho fatto una prolunga, adesso è 2,50 m, perché quello suo è, diciamo, è un po' rigido e corto. Anche io ho fatto una prolunga con un filo a 3 e va bene adesso, e va bene. Boh, non lo so, io infatti ho detto, se c'è qualcuno provo a entrare a vedere se mi danno un controllo. Non c'è problema, così va bene. Quando sei entrato eri tutto saturo, capito? Sì, è perché era un po' alto, era un po' alto dalla radio, era un po' alto dalla radio. Riesci a vedere se posso aumentare un pochino il carrier qua. Allora, ok, dai, adesso gli ho aumentato un pochino il carrier. Va bene sempre la radio, non c'è problema, dai. Non gli ha fatto nulla la radio. Ok, adesso vediamo un po'. Lo aumentiamo ancora, eccolo qua. E vabbè, esperimenti sono, dai, sono esperimenti. Adesso vediamo un po' come va a lunga gittata. E infatti. Boh. E perché come sgarri appena appena con questi comandi, col carrier e il coso, va subito in saturazione, però boh, andava bene, dai, andava bene. Ah, sta ripiovendo, sta. E piovigginando sta qua. No, che nella varendi l'aria ansura. Nella varendi l'aria ansura e nocca. Me lo posso immaginare. Va bene. Adesso faccio una cosa, dai. Sono un attimino qua, Natali, sentiamo dopo magari, grazie. Sì, figurati, anch'io sono qua in ascolto. Tutto scrucimignato di radio. Ah, la radio è tutta scrucimignata. Già quello zucchero che c'è. Ma cosa hai mangiato? Brodino di mamma pure. Ma non è che anche. Non parli adesso. Cosa mi vuoi fare incavolare? Lui era Brodino di mamma. E Giulio poi non ha sentito per niente. No, Giulio c'è snobbato oggi. Eh sì, in ferie. Faccio un controllino. Adesso mi sto bevendo un bel po' di tè. Di mamma? No, questo è tè. Il brodino di mamma a mezzogiorno l'ho mangiato. Pensavo che facevi anche il tè di mamma. Non lo so, adesso lo chiedo a mia moglie se lo sa fare il tè di mamma. È una buona tisana, altro che. Sì, adesso glielo dico di farmelo. Non mi filtrarlo bene però, Cosa lui? Devi dirgli di filtrarlo bene, come tutte le tisane. Ehi, adesso glielo dico se me lo fa. Così risulta bello marmoreo. E di metterci due foglie di alloro, guarda, la mucchisuia. Mamma, è alloro, la mucchisuia. Luca, adesso glielo faccio il tè di marmo. Meglio che quello vuole tutti i giorni, via. Anche a colazione. Beve un Natale soprattutto a colazione. Te credo. Perché non glielo prepari a Marcolino, eh? Perché non glielo prepari a Marcolino Condo? E a lui gli va bene quello. È sempre un ascolto, ma non entra. Hai capito Marcolino? Perché un po' uomane quel Marcolino Condo. Non entri? Non entra, no, non entra. Adesso c'è l'antenna bagnata, invece io ce l'ho di gomma, non si bagna questo, hai visto? E posso stare tranquillo. Adesso a Marcolino gli facciamo bere il tè di mammo con i biscotti di cemento armato. Addirittura. Anche in curva. Adesso sta ridendo sotto i baffi. Aspetta, so. Mi sto accingendo a aprire, a collegare i fili all'MC50 che deve partire. Deve partire, così che abbiamo staccato i fili per collegarlo al mixer. Adesso li devo ricollegare. E capa. Speriamo della fregatura. Ma dobbiamo immaginare. Sì, tutto a parte. Devo prendere un'altra radio. K. Allora, una e bu, Natalino. Un e bu. E a K. Mi ti ho mandato la foto del 60. Guardala. K, dopo la guardo. E mi pare che qui non ci siano. Beh, c'è qualcuno che non rimangano nella. Il finale è quello di recuperare queste ragazze. Sì, ma queste cose manifestano a 13 anni già un tipo di come dire, azione su quella che stiamo raccontando. Pericolosità. Chiamiamola col suo nome, questa è pericolosità sociale pura. Proprio. Siamo in un piccolo paese di 4.000 abitanti, nel forte provincia di Mantova, e lì le donne Cosa? Cosa di Buddha? Sto salvando la parità. Ehi, io sono qui. Chi sei? Io, indovina Dovinello. Cosa? Abbiamo parlato in due? Gianni Dottoruso, la va. Beh, Gianni Gay, buonasera. E allora, Dani, sto bene. Diciamo di sì, dai, tutto a posto, perché a posto. Sei dice che non è a posto, pure ma a posto. Quello, vabbè, resta. Oh, via, fa ascoltare un po' del radio solo già. Ehi, dai. Ogni tanto ci può. Ehi, già mi stavo ascoltando poi l'altro giorno, più acceso. Non ho avuto il tempo di salutarvi, dai. E oggi invece l'ho riacceso e sto facendo un giro. Tu cosa c'è, 104 o 44? 14. Già va bene, va bene. Ehi, hai ancora è freddo, l'ho acceso da poco. Cava, già va bene. Ehi, io me lo volevo prendere pure, ho cambiato idea. Mi piacciono più i baracchini, perché quello li stai sempre regolando, facendo, bumba. Uno ti dice abbassa, l'altro ti dice alza, No, io questo qui, da quando l'ho regolato non ho toccato mai niente. Sempre così com'è. Sì, ma perché tu non hai gente vicino, capito? Non disturbi. Ehi, vabbè, ma è normale, se c'è qualcuno vicino è giusto. Cappagatto. Sì, vabbè. Un giorno che metti in mente me lo prendo, me ne foto di tutto. E fai bene. Intanto di vicino chi c'hai già? Sì, c'è tutta la Tedolce, c'è Luca, c'è California, c'è tutti vicino a me. Ehi, già, è vero, sì. Adesso stavo pensando. Sì, mancavo. Così sparato gli arrivi. Avanti, Alghero. Sì, adesso va bene. adesso va bene, non è come l'altro giorno che usciva tipo fuori frequenza. Cosa ne hai fatto? No, adesso già va bene, dai. Mirko, buonasera comunque. Avanti Daniele, lo senti Mirko? Ma Mirko di Olmedo, Di Alghero. Ciao, l'ascolto, buonasera Mirko. Il segnale è 7, però di radio qua lo sento basso io. Daniele dice che ti sentiamo a basso, che c'ha molto QRM, non so se l'hai sentito. L'ho sentito già, però lo sento in mezzo anche io al QRM, ripeto, il segnale adesso è salito 7, 8, però di radio qua è bassissima. Non so, magari dopo accendo il drone e vediamo se mi ascolta. Adesso c'ho ZG MV+4, come sta andando questo ZG? Dani? Ah, sto cercando a Mirko. Va bene già, va bene, a voglia. La radio forte? Già è forte, è bella, squillante. KK. Ha fatto la modifica, ha fatto un po' di cielo, non va meglio così. Cava. Ma io non ho capito chi è questo Mirko, io pensavo che fosse Mirko quello che conosco io. Non è manco italiano Mirko, Ah, ecco. Va bene, non l'ho mai sentito. No, io diverse volte lo sento a Mirko, Ogni tanto entra, vero Mirko? Io già partire lo sento come se fossi in FM. Mirko esattamente, africano, KK, no, ma lo parli benissimo l'italiano, niente da dire, solo l'accento che magari è un po' strano, capito? Prego, buonasera. Ciao, si sente, capito, quello. Ciao Gabino, buonasera, va. Buonasera Gianni, ben sentito come sempre. Stavo parlando con Mirko D'Alghero, poi c'è anche Daniele da Sassari, prova a vedere se dovresti sentirlo, Daniele è una bomboletta. Avanti Daniele per Gabino. Ciao Gabino, ben sentito, buonasera, Daniele da questa parte. Buonasera Daniele, ben sentito anche tu qua, coordinate Sorso, strada provinciale 25, Sorso Porto Torres. Avanti Daniele. Stai arrivando abbastanza bene, 9,5,6 qua, va bene, radio buona, buonissima. Positivo, no, anche a te ti ascolto bene, anche tu sei qua, sei 9,5. 9,5 a picchi positivi, dai. La radio è 5, la radio è bella chiara. Avanti Gianni, riprendi. Sono io piccolino e basta, dai, sono io il piccolino. Tutti che guidiani siete. Vai, figli di là, vai. Come mi compi già? Bene, ce la aprirei. Positivo, allora provo. Perché sto facendo una prova, poi ti dico cosa sto usando. Adesso provo a fare un pochino il microfono, vai, dalla radio. Sempre buona? Sì. Positivo, allora andiamo ancora di più. Avanti Daniele, riprendi. Comunque piacere, Gabino. Dai. Ehi, alzo un attimo, sto accendendo l'altra radio. A vedere come va, succede. Via. Va bene. Dai, Gabino si è presentato. Sta cambiando radio, Gabino. Aspetta un attimino, infatti li ha fischiato. Mirko, avanti per Gabino. Non lo senti, capito? Lo senti cosa, Alghero? No, già. Per Alghero sono abbastanza negativo. Non lo copio a Mirko, non lo copio. Mi dispiace. Comunque, se mi sente, dai, salutamelo. Saluta la fonte, salutamelo tanto. Io non lo conosco verticale, però lo stesso, dai. Ci saluta Gabino, ha detto che non ti sente. Gianni, via. Guarda adesso come questa radio. Questa qui è quella modificata, vuoi la migliorata? Vabbè, sta parte che poi ti riversi già. C'è il microfono troppo vicino alla bocca. Guarda adesso, non è troppo alta la radio, no? Guarda, aspetta, sto facendo già così. Guarda, 2, 3, 4 e 5, com'è? Ora. La radio compressa la sento, capi tu come lo senti in lontananza? Ma io lo copio bene già, non sono problemi. Qua mi arriva benissimo Daniele, qua mi arriva benissimo. Ma io sto sempre aumentando pian piano il mic gain lì quando vado a saturare. Sì. No Daniele, probabilmente Gabino in lontananza ti sente bene, capito? Io ti sento un po' saturo. Ti credo già. Quanto stai usando? Sì, ci ha attaccato il peccatore. cane morto. Però siamo con due zeri, eh. Fammi un passaggio, Daniel. Guarda un po', Gavì. 1, 2, 3, 4 e 5. La peppina fa il caffè. 9.30. Gianni, qua è 9.30, Daniele. Come sei tu? 9.30. Sì, sì. E io quanto sono adesso? La deve attaccare. È voluto già. 9.45 mi sta arrivando adesso. Ma tu sai da come ho fatto, E anche io. Io l'ho abbassato, il power del Galaxy l'ho abbassato al massimo. Adesso lo alzo di nuovo. Guarda invece se rifatto in più associava la radio già. 1, 2, 3, 4 e 5. No, è abbastanza chiaro, un po' compresso, Dani, ma comprensibilissimo. Vabbè, però è un passaggio, poi i radio sono anche vicini, capito? Daniele, tu mi copi compresso a me adesso? Io ti ascolto sempre bene, almeno qua questo palacchinetto non sento differenza. Positivo. Gianni, ci sei? Sì. Com'è adesso? Guarda un pochino. Ora, guarda se è aumentato un pochino il segnale e la radio. Il segnale è 9.30, la radio è sempre forte, dai. Va bene. Conto su di te, avvisami quando va a saturare, sto facendo la regolazione. Sto usando quelle di BP4 modificato. quello che ho modificato per il coso, per il 2009, gli ho fatto le connessioni, poco fa lo sto usando qua con K. Adesso appena dovresti abbassarlo, secondo me. Abbassa appena. Ok, adesso l'ho abbassato di nuovo, Adesso è a mezzogiorno. Lascialo così che va bene. Perfetto, allora lasciamo così, dai, stacco lo strumento. Ora, stacco lo strumento e sto rientrando. Via. Daniele, avanti. Non sentivo a Mirko, se adesso mi sentiva meglio. Mirko? Questo un po' se lo mangia, guardate, se dovessi aumentare un po', ora la cipolla. Mirko, io quanto ti arrivo a Ghero? Kappa. Va bene, anche questo abbiamo fatto girare un po'. Sì, Dani, ma ZG c'è? No, è ZG, no, questo è dell'RM. RM Italy. Si conferma, quella 320 lei. Quella da 600. Kappa. E anch'io c'ho l'RM, però. Tutti pompando, bubu. Non sta pompando nessuno, sono Google Saccato io. Ciao, buonasera a tutti. Ebbene, Natale. Ciao, Dani. Buonasera. Buonasera anche a lei, ben sentito. Dopo secoli. Davvero. Aspetta, passo all'altro. Pompate. Villasso, mi. Buonasera, Marco. Buonasera a tutti, sono di passaggio, mi. Sto andando a sdraiarmi adesso. Buona serata. Sdraiarti, a quest'ora? Sai cos'è, state voi, notte insonne, poi stamattina due ore di sonno, poi uscito a fare commissioni, ho cucinato, poi mangiato, poi facendo roba in casa e finalmente adesso per la schiena mi ho bisogno di stendere la colonna vertebrale. E chi è? Aspetta, lei che è entrato Marcolino. Marcolino, te l'ho detto, ballati una della crucca. Vai da Marine di Fatta, su RDS, che ti fa il massaggio. Ma lo segretano di Baras. L'asino della crucca mi ispira di più. Ciao Daniele, avanti. Certo, sei diventato gay allora. Tutto, bisogna sperimentare. Marine di Fatta ti fa le massaggi le femminucce. Certo. Massaggio con regalino. Dai, quando fai così ti temo già. Stiamo di Baras, vai Marco, che aveva le che suonava le campane con i piedi. Come va le mani con i carciofi, vai che ti fa grattina la schiena. Daniele, avanti. Eccomi, sono tornato con l'originale. Bella modulazione. Allora, ridono i saluti e vado a stendermi. A dopo, ciao. Ciao Marco, buona serata. Ciao Marcolino. ci sentiamo dopo al limite se ci sei. Ah, io Gianni, te lo compri questo? Cosa? Questo baracchino. Dammi ne voce, laggio 4, 5, laggio. Ma questo se lo vedi già ti piace. Tornato te la... Aspetta un attimino solo. Te l'ha tornato quella persona? No, quello ancora no, l'altro. E questo non lo so cos'è, mandami la foto, così lo vedo. Avanti Antonio, c'è anche Gavino, non dimenticatevelo. Venga, buonasera a tutti, buonasera Antonio da questa parte. Ciao Antonio, ben sentito, dai. Avanti Gavino per i saluti. Ciao Antonio, buonasera, questa sera ti ho copiato anche io, eh. Questa sera ti ho copiato anche io, buonasera Antonio. Mi prendi? Buonasera. Abbiamo capito Antu. C'è anche Daniele, Antu, vai. Ciao Daniele. Ciao Bongoli, ben sentito, buonasera. E buonasera anche a te. E allora, che si dice? Non stai lavorando qui, Gianto? No, non mi interessa lavorare qui. Sei fermo? Per il momento non mi va. Per problemi. Ah, vai, ah, va. Bene, vega. Riprendi Natale e fai girare. Sì, cosa riprendi? Io me ne sono accorto, vi ascolto volentieri. Sto facendo qualcosa qua. Riprendi Gianni e fai girare. Ehi Natale, rimandamelo quell'apparato, lo voglio vedere. Sì, faccio girare con X, allora Natale. Se me lo puoi mandare me lo mandi, così lo vedo. Poi facciamo girare per Alghero. Avanti Mirko! Ciao a chi mi ha salutato. Va bene Mirko, siamo qua. Quando è finito bussa. Avanti Gavi. Ciao Mirko, buonasera. Ciao Mirko, buonasera. Oggi giornata di ferie già, oggi giornata di ferie. Vabbè, là, ogni tanto ci vuole staccare la spina. Positivo, positivo, oggi giornata di ferie. Dove andrò via? Ogni tanto va bene, poi c'è una brutta giornata oggi, cosa fai? A lavorare, a bagnare tutto? Vabbè, ci rimane a casa, se non vanno a casa. Io mi sono messo al mio, ho fatto il microfono oggi piano piano. E niente, sperando che vada bene, sperando che vada bene, adesso lo proviamo stasera, così lo lasciamo montato. Cioè, va bene, e che cosa gli hai fatto? Niente, è quello che usavo col 3009, l'ho fatto la connessione al Kingwood e l'ho messo qua, capito? E l'ho fatto la connessione e l'ho messo qua. Sempre meglio delle mie C80, perché con l'amplificava troppo, era un casino. Ma già bella la radio. Sì, lasciala stare, già va bene così, già va bene così. Sono accorto anche che va meglio anche come strumento, come cosa, che non mi dà quei picchi strani e va meglio così, dai, lasciamo questo. E tu? Io sono sempre così. Quanto ti stavo dicendo, ne ho visto uno di MC60 su Marketplace, non so se l'hanno venduto, lo stavo vedendo 90 euro. Di latinissi lui. Di latinissi lui, io non devo spendere su di più in radio, basta, finito. Ma lì per finire in belletta ci vuole l'MC60, secondo me, capito? Perché l'MC60 è finito le spese. Sì, lascia così, lascia già. Per il momento lasciamo così, non è che mi interessa più di tanto, tanto guarda, non ne vale la pena, non ne vale la pena. Lasciamo tutto così, abbiamo speso già abbastanza soldi. E vabbè, lo so. Ho visto che sta dando il ricevitore anche. Sì, devo prendere un'altra cosa, quindi. Quello va bene. Appaga. Vabbè. Dai, riprendi Daniele e poi fa girare per Antonio. Chiara, chiara. Mirko di Alghero, chiuso, o si è sporcato? No, si sta facendo la pasta. Cacchio. Va bene, va bene. Va sempre bene, sta girando la storia già. Sì, Dani, va benissimo. Vedo così, dai. E stiamo tenendo tutto sotto controllo. Con questa pioggia, speriamo bene. Ma la terra qui sul tetto l'avevi messa, dai. No, vai sempre lì. No, nel piano dove era prima, però messa nel lato. Capito? E ho alzato di più il palo. Ma quella era scelta radiale, io non mi ricordo bene. No, ti ricordi che c'avevo la mandorla a turbo e c'avevo il problema di radiali, poi avevo tolto tutto. Adesso usano l'energy 5 ottavi. Già esce bene, dai, già esce bene. Va bene, se non è tracco va bene con l'altro. Sì, ma poi era bella la sigillata, diciamo, hai messo il nastro e tutto. Adesso vediamo. Adesso questo ce l'ho già tre anni, adesso mi ricordo quanti ce l'ho questo. E se non lo sai tu, Dani. Alleluia. Avanti, bombolino. Oppure fai ascolto, intanto ci siamo sempre noi. Ieri sera mi pare di no, ieri sera non me lo ricordo se sono entrato, boh. Però quasi tutti i giorni già c'è gente. E di cosa stavamo parlando, Anto, che non mi ricordo? Di auto, di carte, con le carte di auto. Con Roberto Quadra. Sia Roberto che Gavino si intendono di queste cose, quindi è normale che ti piaccia. Io per la mia modesta cosa, adesso se Dio vuole mi prenderò un conto di fare quello che ho fatto, perché io per la mia modesta cosa già me ne intendo. Kappa. Gavino, avanti. Eia. Già, mi dovrei fare la fonte tua, Antonio, perché io la qua c'ho il correme un pochino alto, il correme un pochino alto. Però ho sentito, Antonio, ti piacciono gli discorsi dell'altra notte, hai visto? Roba interessante. Quelli adoro proprio, mi piacciono molto perché ho la passione, cioè, queste cose qua, che erano da quando ero bambino, capito? Poi è positivo, già sono, c'è da parlare per 20 anni di quelle cose, c'è da parlare per 20 anni, c'è da consumare radio parlando di quegli discorsi lì. Poi dai, Roberto già se ne intende anche lui, quindi è uscito un bel QSO. Bianco, un secondo. Io me lo sono perso. Cosa già? Il consiglio dell'altra notte? Eia, me lo sono perso. Anche a me mi piacciono, però io più che in casa in macchina. Io ero fissato con l'impianto in macchina. C'è un impianto che mi faceva vibrare il vito. Anch'io avevo l'impianto, anch'io in macchina avevo un bel impiantone. Ma non c'è tema, cioè con bell'impianto, non c'è tema, avevo due dei sub attaccati allo schienale, finaloni, Audison, tutte le portiere, cioè no, nelle portiere avevo due medio bassi, un medio e i Twitter, poi avevo il pannello e il sub a schienale, con tutto, era tutto amplificato. Avevo comprato lo stereo, era uno dei primi, era il Clarion, quello tutto blu, era bello. Ho fatto la finanziaria per quell'impianto lì, ho speso molti soldi. Allora, io c'avevo l'amplificatore Alpine, le casse erano Hertz, poi c'avevo Twitter Hertz, il sub della Hertz lo stesso da 500 watt, e poi cosa c'avevo? Quello lì nella station Velo, poi l'ho avuto anche nella 500 l'impianto, che me l'aveva fatto uno di Porto Torres, che era in via delle Vigne tanto tempo fa, è la prima macchina che ho avuto, immaginati, tu non so se l'hai conosciuto, e praticamente poi lavorava a Sassari, però prima c'aveva un laboratorio in via delle Vigne e mi aveva fatto i buchi nella lamiera della 500 dietro, mi aveva messo dei sub grossi, Twitter, Midas, tutto dietro mi aveva messo, era, poi l'aveva coperto, non si vedeva nulla. Cazzo, ma questa 500 valeva più l'impianto, e poi allora si usavano gli stereo più si usava l'equalizzatore, io c'avevo sia l'equalizzatore che lo stereo, ma già che tu zuccava quando hanno fatto della mia ragazza a Porto Torres, mi sentiva tutto il palazzo, diceva bimbi Gianni sta arrivando, sì, Gianni si chiamava, Gianni come te, io avevo tutto a posto, avevo tutti, diciamo, gli autoparlanti Boston, della Boston Acoustic, gli amplificatori Audison, Mugia e lo stereo, e i Twitter sia di davanti che di dietro erano Clarion. Io avevo quattro finali in macchina, avevo quattro finali, avevo un finale per ogni sub, avevo il sub da 38, avevo 15 pollici a pannello, a schienale, lo schienale forato, fatto il contro schienale in compensato, diciamo il fenolico, e tutto il corpo non rinvestito con quella spugna porosa, diciamo con uno usato per rivestire le sale prova. Due batterie, era un impianto fatto con i condensatori dietro, i condensatori da due farad, due condensatori da un farad uno, l'uno. Suonava forte, era bello. Il mio impianto anche non l'ha sentito, quello che c'avevo nell'altra, tanto te lo ricordo. Io c'avevo il sub amplificato, l'amplificatore Hertz, no, Alpine, e Alpine c'avevo lo stereo, poi quello stereo l'ho regalato a una persona che non se lo meritava dopo alla fine, e alla fine ho capito che non si meritava manco un cacciolo sereno, vabbè, comunque l'ho regalato, perché poi in macchina ce l'avevo fisso, quindi quello non me lo potevo più mettere. Non lo so altro, però a me mi avevano consigliato quelli, gente che fa le gare, cosa mi ha consigliato quelli Hertz. E chi me l'ha piazzato l'impianto già lo sai, che è quello che prepara le macchine per fare le gare le gare al quadrato lì, cioè, ci sono le macchine che fanno le gare di musica, di stereofonica. Quello lì si chiamava Mancuni, se non sbaglio, Gianni Mancuni. Mura. No, quello che me l'ha fatto a Porto Torres nella 500, che mi ha bucato i pannelli di lamiera dietro. Mura, si chiamava Gianni Mura. Era Ricciolino, Ricciolino è. Oh, Mura. Quello lì mi ha fatto un bel impianto, che cattara, magari abbia un impianto di una macchina. Giorno ti faccio vedere un impianto che ti spaventi in casa, che le casse vanno da sola, giù mani ricaggi una caccia da sopra all'altra. Attoni, mandatemela questa parità, va che ne voglio troppo di quello e costa un sacco di soldi. Tu non lo sai io quanto posso disporre finanziariamente, quindi dove fai questi discorsi? È un impianto che ha fatto un tecnico amico mio, che ho visto le casse andando da sole. Dicendo che camminavo da solo in casa di quest'amico mio, le casse. E lui, ma messo basso, non è che lo vuoi alzano. Si sente fino a qua se lo accende poco a poco. A due l'ha messo e si sentiva la musica qua dentro, con le finestre chiuse. Lo sentivo io da qui dentro. Canti va a attivare un duio, Antu. Che apri dire tu? Io ho i principi, stavo proprio provando. E lui dentro in più, Maghi. Allora bisogna sempre considerare, se non è responsabilità, non fare. Bisogna avere quel fuoco, perché quelle là sono state create apposta perché devono compare. Suono non è tanto la potenza quanto il suono, che deve essere limpido, si deve sentire bene, non la matracca. Io ho sentito certi impianti, si sente tutto distorto, tutta matracca, ma carindai avanti, canto. Poi facevo un amplificatore valvolare per casa, diciamo hi-fi, eroga 20 watt, ma è tutto pulizia, con delle altoparlanti 4 vie. Poi ci sono, poi dall'hi-fi all'uso professionale cambia, dall'uso professionale cambia. Tu considera già che noi quando montiamo, per esempio quando abbiamo montato per la Bertè a Golf Aranci, c'erano 70 kW di audio. 70 kW, non 71 watt, 70 kW di assorbimento, sono all'incirca 80.000 watt, 85.000 watt. Live, quindi sono altre situazioni quelle. Poi in casa, a casa abbassano 30 watt lì, per sentirlo bene, perché intanto poi alla fine va di forgere, va a disturbare gli altri, però c'è gente poi che poi si riempie la bocca con questi watt, quando poi il watt non serve anche a niente, il watt non è un altoparlante a 500 watt, l'altoparlante può assorbire, può digerire, può assorbire una potenza, un amplificatore che dipende da che classe è, perché ci sono i sub, sono amplificatori classe A, classe AB e classe D. Capito? Bisogna avere che l'amplificatore sia, perché se un classe A ci vogliono 5 kW di assorbimento in appartamento, se un classe AB sono i classici amplificatori Yamaha, quelli che si trovano, poi ci sono i classe D che si usano per le basse frequenze, che sono amplificatori che scendono molto di ohm, che si usano per le basse frequenze, cioè per i subwoofer. Poi ci sono quelli che dicono l'amplificatore a 1000 watt, quando quelli producono il proprio strumento e producono 150 watt. È un discorso tanto da affrontare in tante maniere. Per esempio, io ti faccio vedere che un impiantino a casa, io metto 10 watt di satelliti, è una bella bassa frequenza disposta bene, faccio vedere, poi ti montiamo un impianto da 1000 watt, una casa ti faccio vedere che quello che montiamo con 4 satellitini piccoli, un subettino, suona di più delle due casse mastodontiche che se gli dai 200 watt poi si spaccano. Infatti questo qui non si rileva nessuna distorsione, come piace a Gianni, proprio hi-fi è quello, quello dell'egregio amico mio. Ti sto dicendo che sembra di essere in un concerto. Sì, Nathalie, guarda, io fino a poco tempo fa avevo l'Eclipse, non so se le conosci, sono autoparlanti di una nota azienda, sono autoparlanti più che altro per riprodurre musica classica. Io lo ascolto molti Pink Floyd, Dire Straits, questa musica qui, nel mio personale, e per lavoro devi avere a che fare con qualsiasi tipo di musica, però nel mio personale io ascolto questa musica qua, avevo l'Eclipse e l'ho date. Adesso ho un piccolo impiantino della Boston, con le colonne, due colonne belle della Boston, un amplificatore da 20 watt senza subwoofer, perché la bassa frequenza in casa non è che serva molto, giusto per un rinforzo, ma queste qua non hanno bisogno di rinforzo, ce n'è anche troppo. Quando ti ascolti una radio, una canzone, una cosa, sembra che se chiudi gli occhi non sai da dove proviene il suono. Perché c'è l'effetto sul vago? No, perché è un autoparlante che... Il fatto che ho fatto mille prove anche con l'analizzatore di spettro e mi sono accorto che andava posizionato in una certa maniera, e tu ti siedi nel divano, ti siedi nella sedia, ti siedi dove vuoi, sempre in quella camera lì, il suono avviene, cioè è sempre uguale. Ma Gianni, io ti parlo di 22 watt, non ti sto parlando di 1000 watt, 22 watt, ti fa 20, ti fa male il petto. Mi se io l'altro lo metto al volume, lo metto a regime, ma ti parlo di un quarto di amplificatore d'età alla grezza, ti fa male il petto, capito? E di valvolari di Vinassia, Gavì, già lo so che c'hanno pochi batti, ma compagni che cosa amara. Vabbè, scusate, io purtroppo devo fare una telefonata, ci sentiamo dopo. E allora lì. Vediamo un po' se è entrato Mirko di Alghero. Mirko, mangiate lei questa pasta. Ma Mirko deve essere che ha chiuso. Stava facendo la pasta, sta mangiando adesso. Io fra poco devo andare, che c'è una commissione da fare. Lo attacco dalla macchina, se c'è gente ci parlo, e così proviamo l'antenna. Già, io sono qua in radio. Io sono qua in radio. Ascolta, ma non ti voglio stressare, ma sta andando sempre bene questo microfono oppure sta saturando com'è già? Quelle superiori, la capita, quelle in legno, quelle che sono fatte in legno, voi si ricordate? A me pare che non comprendono perché non ero l'una, ma non sono spettacolare, ecco. Diciamo, me le vorrei comprare, me le vorrei, perché io ho sentito una volta e adesso sono un po' innamorato. Io le Boston, quella serie lì, si chiama Boston Acoustic, l'avevo prese da sinfonie, con un amplificatore Yamaha Natural Sound, e sono diffusori di altissima efficienza, ma vi ripeto, un 22 watt che 20 watt ti faccio venire a casa e tu ascolti quell'impianto, ti fa male il petto, se io ti metto un petto rock, un petto dei Toto, ti metto un petto ti dà la pacca la bombata delle basse frequenze e la schicchiata delle medio alte, però sempre con una bella equalizzazione e nessuna distorsione. Va bene, riprendi Gianni. Io riprendo e vi lascio, dai, che devo portare giù il cane e poi alle 7:30 riattacco dalla macchina, dai. Ci sentiamo, se ci siete poi riattacco. Ciao, ci sentiamo, avanti Gabri. Gianni, già ci siamo, io sono qua Gianni, capito anche tu, il discorso sta anche dove posizionare i diffusori, perché se tu posizioni il diffusore vicino, dove posizionare soprattutto l'altezza a terra, perché è inutile mettere autoparlanti, c'è gente che metteva gli autoparlanti sopra il mobile, la cosa è sbagliatissima, perché a chi va dentro nel suono, al petto, invece no, vanno posizionati all'altezza all'uomo, con la tromba, col Twitter, col medio alto, come lo vuoi chiamare, all'altezza all'uomo, deve essere la tromba o il Twitter all'altezza dell'orecchio, e così come quando vedi magari certi impianti che fanno karaoke, che fanno cose, tutto a secca, tutto a palla, non serve a niente, perché intanto in un locale per vedere che l'impianto suona, ma alla fine se c'è uno che ne capisce ti dice perché non lo abbassi che si sente meglio. No, io non lo abbasso, faccio solo la prova per vedere come si comporta, perché anche io faccio questa cosa qua qualche seratina, la faccio di tanto con karaoke, perché è tanto, capito, e faccio questa prova qua, però io l'altro giorno alle 11 ho messo questa cosa è bombata, no? Come se fumi più facile, perché tremano anche i bicchieri, quindi sì, sì, le conosco, ma per quelle ci vuole anche un finalino tranquillo, ci vuole un bel amplificatorino tranquillo. No, sono già amplificato. Allora non ho capito quale stai dicendo. Quelle SPT, quelle che ci sono in esposizione, che sono attive, le casse attive io le uso per fare il karaoke, capito? Le casse attive è così, però voglio la classe più alta, voglio, non voglio quelle in plastica, voglio le altre, quelle in legno, quelle belle. Ah, ho capito, sì, le FBT, le Jolly 15, cosa sono le Jolly, e ho capito quali sono, qualcuno ha 15 pollici, ho capito, ho capito. No, già sono belle quelle lì, già sono belle. Quelle, la parte più alta, non mi si parte in classe, le altre, quelle che contano 900 euro. Io li ho sentite suonando, sono una bestia, mi ha fatto quasi le mille battute, ma compa, è una cosa impressionante, e poi le suona è perfetto. Sì, sì, sì, già sono belle, poi dipende dall'utilizzo che devi fare anche, dipende anche dall'utilizzo che devi fare. Tanto io devo fare un attimo di bianco che devo andare in bagno, un attimino. Sì, hai capito, sarà un che devo fare. Lola? Chi è Lola? Natalì, sono io. A parte Natalì. E c'era mia moglie che stava telefonando. Che bella. Un giorno ti faccio sentire il mio. L'impianto, così tu dai. Ma chi su è Paffura, chi su è di casa, wifi e...